Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. In sintesi le notizie del giorno: Rocchi, l'arbitro fiorentino Gianluca Rocchi, dirigerà domani sera l'anticipo Juventus-Genoa della 12ª giornata. Si gioca a Torino alle 20:30 perché sabato poi lo Stadio Olimpico di Torino ospiterà Italia-Argentina di rugby. Il Real Madrid è uscito dalla Coppa del Re sconfitto, o meglio, ha vinto 4-3 la partita di ritorno, ma ha perso 3-2 all'andata, ed è uscito da una squadra di terza divisione, il Real Unión di Irún. Ci sono reazioni durissime da parte della stampa spagnola, oltre che della tifoseria ieri sera. Real Vergüenza, vergogna in spagnolo, è il titolo che campeggia su quasi tutti i quotidiani di oggi. La piccola consolazione di Raul, arrivato a 300 gol in partite ufficiali giocate con Real, e quindi a soli 7 gol di distacco dal leggendario Di Stefano, che era a quota 307, è evidentemente un piccolo palliativo rispetto a questo disastro. Schuster rischia la panchina, ma la rischia sul serio. C'è una specie di ultimatum per Real Valladolid del prossimo turno di campionato. È uscito anche il Lione, campione, stracampione di Francia, da una squadra, il Metz, di seconda divisione, ed è stato sconfitto in casa dopo un anno, quindi un'altra eliminata di grido. E poi, volendo, ci sarebbe questa simpatica notizia che arriva da Liverpool, della possibilità che il Liverpool sia costretto a svendere con una certa urgenza i suoi campioni, travolto da 425 milioni di debiti. Le due banche creditrici sono a loro volta in difficoltà, sicché quella di cedere a gennaio i pezzi pregiati della rosa potrebbe essere un'ipotesi da non scartare. Forse la sintesi non era così estrema, però insomma era per guadagnare tempo, perché, come anticipato fin da lunedì, l'argomento di oggi è il rapporto sempre più logoro tra il calcio parlato e la TV. Domenica scorsa 4 allenatori hanno perso le staffe con più o meno garbo e con maggiore o minore intensità: Mourinho, Rey, Rossi e Zenga. Sky e Rai invocano puntualmente il rispetto del contratto che prevede la partecipazione degli allenatori al dopopartita. Ieri Matarrese, come presidente di Lega, ha pubblicamente invitato i suoi colleghi presidenti a richiamare all'ordine i loro allenatori, e ha detto Matarrese, presidente, al plurale. Dunque anche Zamparini, fresco reduce dall'aver dato, come già ieri ricordato, dei maiali ai giornalisti. Sicché Zamparini, secondo Matarrese, dovrebbe farsi carico di insegnare il bon ton a un gentiluomo vero come Ballardini. Do il bentornato con grande piacere al professor Giorgio Simonelli. Buongiorno, buongiorno. Giorgio. Buongiorno. Oh, Giorgio Simonelli è docente di giornalismo radiofonico e televisivo all'Università Cattolica di Milano. È un grande appassionato di calcio. Ho detto bentornato perché spesso e volentieri ci fa compagnia. Grazie a voi. In questa è tutto vero quello che avete detto di me. È tutto vero. Tutto vero. Corrisponde. Non ho ancora detto che sei milanista, ma i tifosi con la memoria lunga lo ricordano. Giorgio, io vorrei che tu, perché poi dico a te, dico agli ascoltatori, che abbiamo provato a fare un'inchiesta vecchia maniera, sicché Flavio Soldi ha raggiunto i direttori praticamente sia di Lega Calcio che di Rai che di Sky, e ascolteremo le loro posizioni nel corso dell'appuntamento. Però mi piacerebbe il tuo punto di vista iniziale su questo argomento. Sulla partecipazione degli allenatori? Sulla partecipazione, su questo malessere, su questo clima conflittuale, sugli obblighi, i doveri, i diritti. Quello. Credo che ci sia, come dire, non tanto un equivoco, quanto, come dire, un po' un equivoco guidato. Sì. Come si diceva prima, insomma, è noto che il calcio parlato, cioè la chiacchiera sul calcio che precede, segue le partite, insomma, è diventato in Italia altrettanto importante del gioco stesso, dello spettacolo giocato, e quindi è inevitabile, insomma, che su queste cose si concentrino molto interesse e molte attenzioni e ci siano insomma anche un po' così un gioco delle parti, perché si fa presto a dire richiamiamo all'attenzione all'eleganza, alla prudenza, sì, alla sobrietà, però poi quello che fa gioco alle televisioni sono proprio invece gli scarti rispetto a queste linee. Io credo che la domenica pomeriggio chi si mette lì a seguire dopo le partite le dirette con lo spogliatoio, con la sala stampa dove imperversano gli allenatori, si aspetta proprio, come dire, qualche accento un po' sopra le righe, sì, ecco, se non proprio il sangue qualcosa, sì, se no il gioco non c'è, certo. Allora per dirle così, adesso non voglio fare ecco la lezione di teatro, però mi sembra che qui si giochi una commedia dell'arte, no? Mm-hmm. Dove c'è la bella Colombina, c'è Arlecchino, c'è Balanzone, c'è Matamoro, insomma ci sono tutte queste maschere della commedia dell'arte e ognuno fa la sua parte, ecco, mi sembra che questo negli ultimi che possa anni essere inquadrato così. Sai cos'è, Giorgio? Io che ho fatto parte di quel teatrino a suo tempo, di quella commedia dell'arte, perché giovane cronista inseguivo per esempio Rocco in spogliatoio, per dirti. Rocco usciva, mi con voi altri oggi non parlo, faceva uno scatto verso l'uscita, uno scatto si fa per dire insomma, verso l'uscita, poi si appoggiava a un muro, ci aspettava perché sapeva che comunque saremmo tornati e c'era questa che, allora quella secondo me era commedia dell'arte, io oggi vedo più Bagaglino, se posso dire. C'era un'altra differenza, che lì, siccome queste cose non si vedevano, ma si raccontavano con delle parole, poi stava nell'abilità del cronista di fare della buona o cattiva letteratura su quella faccenda. E oggi la televisione ha eliminato i filtri e quindi quello che lo spettatore vede è più o meno, insomma, con i suoi occhi quello che accade realmente, allora sì, lì si capisce, insomma c'è chi recita meglio e chi recita peggio, però credo che sia inevitabile che su quello si investa molto, ecco, è usato il verbo investire. Non a caso. Senti, io ho già anticipato ieri che tra diciamo opinionisti e giornalisti da studio, non da campo, è da studio, non da spogliatoio, tra quelli da studio e gli allenatori, io sto dalla parte degli allenatori, nettamente, perché secondo me c'è, e però vorrei la tua opinione in materia, c'è una disparità di partenza netta, che non è quella economica, che è fin troppo facile da stabilire e vagamente volgare a parer mio, è una disparità di condizioni psicofisiche, nervose in quel momento. Cioè, c'è un allenatore che non ha avuto alcuna possibilità di smaltire lo stress di una partita in cui magari si è giocato chissà cosa e magari ha perso, perché uno dei due comunque ragione mediamente perde, da una parte, e dall'altra c'è uno studio diciamo pure impomatato, no? Con il trucco bello in ordine, con le statistiche lì da consultare, con i, non dico i proiettili perché è un bruttissimo linguaggio, insomma, ma con le munizioni, no? da caricare con calma a seconda di chi si presenta. Il fatto, correggimi se sbaglio, che raramente l'allenatore perda le staffe con chi è di fianco a lui e ha condiviso comunque un pomeriggio di avventura, e invece se la prenda con chi ha il calduccio e col fard ben spalmato, mi sembra già significativo anche quello. Certo, che difatti io mi sono sempre chiesto come facciano certi allenatori che devono avere delle doti veramente sovrannaturali, perché ne abbiamo visti che 30 secondi prima, via, 3 minuti prima erano scalmanati in panchina a prendere a calci bottigliette e a manate la panchina e poi si presentano come dei gentleman invece in studio, ecco questo. Però ho l'impressione, vorrei aggiungere questo particolare, che da un paio d'anni, da 3 anni forse, qualcuno di questi allenatori è stato al gioco, sì, nel senso che ha gradito questo tipo di situazione per costruirsi un suo personaggio televisivo. Vero. Spalletti, tanto per dire uno che mi è simpatico. Sì, sì, vero. Anche Ancelotti, sicuramente Mourinho, pur essendo il più fresco, un po' anche Reia che fa il saggio, però ho l'impressione che è vero che loro sono le vittime, però che in questo ruolo di vittime ci abbiano giocato e ci hanno preso gusto. non so se condividete questa condivido sì, no, io non credo che loro si sentano vittime e comunque non sono certamente io a definirli tali. Dico però che un po' di solidarietà in più per loro, no, rispetto a chi invece io ne faccio anche però, Giorgio, una questione di documentazione. Ti sottopongo ancora questa e poi dopo l'intervallo ascoltiamo i primi contributi alla discussione. Questa è la seguente. Non mi pare che capiti mai qualcosa di così di così caldo, per esempio, come è successo domenica, negli anticipi e nei posticipi. Perché? Perché secondo me la domenica pomeriggio, con 7 partite in contemporanea, quando accadono cioè queste cose, c'è anche un difetto di documentazione. È impossibile che i cosiddetti opinionisti in studio possano seguire e documentarsi seriamente su 7 partite che vengono giocate contemporaneamente. Quindi cosa fanno? Guardano qualche highlights e hanno evidentemente una preparazione sommaria, diciamo, per poter... Ora, poi il mestiere, tutto quello che vuoi, la capacità di sintesi, no? Ma forse anche questo spiega però il maggior rispetto che l'allenatore porta a chi è di fianco a lui, la partita alla vista e gli pone le sue domande. Sì, sì, sicuramente la domenica pomeriggio è tutto più nervoso, è tutto più agitato, perché c'è questa componente per cui si deve parlare di tante cose e di tante cose su cui non si è preparatissimi. Poi c'è il problema dell'attesa, che crea nervosismo, perché io credo che molti di questi nervosismi nascano anche dal fatto, parla prima Mourinho o parla prima sì. Ranieri. Allora quello che magari sta lì ad aspettare e si vede scavalcato come nelle file, no? Da altri. Togli magari, è vero. Io lancio una proposta, facciamo una cosa, d'ora in poi si usa l'ordine alfabetico, così come Dio Dabbi uno sa quando è il suo momento, per esempio. No? Perché se no lì accumula stress, allo stress che è già accumulato in panchina, accumula lo stress di sentire gli altri che e diventa sempre più nervoso. E poi come succede negli esami, l'ultimo ci rimette, no? Perché tutti sono più agitati. È verissimo. Ricordiamoci sempre che parliamo di un gioco, però siccome siamo tutti tifosi sappiamo anche che questo gioco ci prende, no? Ci appassiona, quindi non possiamo chiedere di essere distaccati quando non lo sia, però forse bisognerebbe anche ridimensionare il tutto, ecco. Poi è chiaro che nei posticipi e negli anticipi tutto è più ordinato perché ci si può dare un ordine che la domenica non c'è. C'è un flusso naturale. Proprio su questo dopo insomma, ci racconterà un po' come vanno le cose il direttore generale della Lega Marco Brunelli. Un paio di messaggi scelti a caso durante l'intervallo. È troppo semplicistico fare una conferenza stampa generale come una volta. Come fa un allenatore a stare tranquillo di fronte a domande sempre uguali? Scrive Marco Manzardo, e infatti me lo domando anch'io e al posto loro non so come riuscirei a controllare i nervi. Il 95% delle volte sono d'accordo con lei, scrive Andrea, stavolta proprio no, gli allenatori sono pagati profumatamente grazie ai soldi della TV e hanno costruito carriere grazie ai media. Giorgio, io direi di ascoltare intendo il professor Giorgio Simonelli, docente di giornalismo radiofonico e televisivo alla Cattolica di Milano, direi di ascoltare il primo contributo di Flavio Soardi, che è la ricostruzione che il direttore generale della Lega Calcio, Marco Brunelli, fa del percorso, proprio di questa via crucis che allenatori e giocatori devono fare per le interviste del dopogara. Una parte del problema è sorto per esempio in questi giorni relativamente a un eccessivo, così dicono, sostengono in diversi, affollamento di soggetti che hanno acquisito diritti per effettuare interviste per esempio al termine della gara, nasce da una situazione tutta italiana molto particolare in cui negli ultimi anni si sono sovrapposti, spesso anche in momenti diversi, diritti che sono stati licenziati individualmente dai club a diritti che sono stati invece venduti centralmente dalla Lega. Oggi abbiamo una situazione obiettivamente un po' complessa, nella quale finita la partita ci sono diverse priorità che emittenti di varia natura hanno acquisito o dai club o dalla Lega e che prevedono che Sky, quindi soggetto che ha acquisito direttamente dai club i diritti per la trasmissione in diretta delle partite sul satellite, ha diritto ad effettuare in diretta la prima intervista, cosiddetta flash interview, direttamente sul campo da gioco davanti al backdrop della Lega, al calciatore, al migliore, insomma, tipicamente il migliore in campo. Ed è l'unica intervista che si può fare a fine partita in diretta sul terreno di gioco, perché l'unico altro soggetto che ha un diritto corrispondente è in questo caso Rai, quindi il titolare dei diritti per i cosiddetti highlights in chiaro, quindi il 90° minuto, tanto per essere chiari, che ha il diritto di mettersi in coda e intervistare anche lei un giocatore, quello che preferisce, lo stesso che ha intervistato Sky o un altro, purché questa intervista venga diffusa in differita, quindi registrata dopo un certo numero di minuti. E questi sono gli unici due soggetti che possono intervistare protagonisti sul terreno di gioco. Da quel punto in poi inizia la serie dei diritti per effettuare interviste nella cosiddetta area privilegiata antistante gli spogliatoi. Qui hanno accesso solo le emittenti che hanno acquisito diritti, perché tutte le altre emittenti si accomodano nella cosiddetta zona mista, che è una specie di corridoio che collega gli spogliatoi alla zona dove sono parcheggiati i pullman, eccetera, dove tutti i giocatori, tecnici, dirigenti passano finita la partita e lì, diciamo, trovano tutte le emittenti che non hanno diritti particolari. In questa zona invece, cosiddetta privilegiata, davanti agli spogliatoi, possono effettuare interviste. Ovviamente Sky, perché rimane la prima della lista per le stesse ragioni poc'anzi espresse. Subito dopo il titolare dei diritti in chiaro, quindi Rai 90° minuto, poi la radio della Rai. Poi ci sono un altro paio di soggetti che hanno acquisito diritti sempre dai club, sono segnatamente il titolare dei diritti in modalità digitale terrestre, quindi o Mediaset Premium o la 7 carta più, tanto per intenderci, e poi siccome i club vendono anche diritti internazionali, quindi per la trasmissione delle loro partite all'estero, ovviamente non potremmo mai accreditare in quell'area tutte le emittenti che trasmettono una partita del Milan, dell'Inter, della Juve, del Napoli in giro per il mondo, però ogni partita queste emittenti hanno diritto di sostanzialmente accreditarne una in quest'area, quindi diventa una catena di sei soggetti che aspettano pazientemente il loro turno. Per fortuna Brunelli alla fine ha riassunto, Giorgio, ha detto siamo a sei soggetti, e perché io sinceramente avevo perso il conto. Buffa, no? Io capisco anche che se non si fanno delle regole succede un casino, si può dire casino, no? Si può dire, succede sì. Un casino assolutamente incontrollabile, però nel momento in cui Brunelli enunciava queste cose non riuscivo a non sorridere, perché mi sembra una cosa, stavo pensando, forse Obama, dopo che ha vinto le elezioni, ecco, aveva di fronte una situazione più semplice da gestire, ecco, sì, no? sì, difatti, no, non faccio la facile ironia, che poi è sempre una partita di calcio, però mi sembra veramente che si è costruita una macchina veramente complicata, no? Tant'è vero che il messaggio certamente più divertente fino ad ora l'ha firmato Sandro Fabri da Milano, che scrive: ma non si può mettere il numerino come al supermercato, perché in effetti non siamo lontani. Invece un altro ascoltatore scrive: un allenatore di Serie A guadagna fior di quattrini e ha un ruolo educativo, questo si può discutere, io guadagno 900 euro al mese e quando il capo o il cliente mi cazziano io devo stare zitto, al massimo rispondere educatamente, quindi i signori imparino a darsi una regolata, che i veri problemi, le vere tensioni non sanno nemmeno cosa siano, scrive Luca D'Alegnano. C'è la solita demagogia, no? Credo, in un messaggio di questo genere, per carità, rispettabilissimo, ma intanto non c'è nessun capo che possa cazziare un allenatore, per usare lo stesso linguaggio, al massimo sarà il suo presidente, non è certamente un interlocutore dall'altra parte di un microfono, Giorgio, no? Direi. No, qui si sta creando forse un equivoco, forse che bisogna chiarire, perché si sta parlando un po', come dire, di un tema importante, che è quello del diritto dovere di informazione, insomma. Sì. Siamo anche da queste parti, però nello stesso tempo, insomma, è anche vero quello che si dice, che gli allenatori hanno, senza fare demagogia o populismo, insomma, guadagnano dei soldi in quanto le televisioni sono entrate pesantemente nel calcio, questo sì. Lo sappiamo tutti, e quindi, insomma, in qualche modo, come dire, fanno parte del gioco. Credo che si debba trovare una soluzione per cui, ma per migliorare, scusami, non si considerino i giornalisti i padroni, perché questo sarebbe l'errore più clamoroso. Giustissimo. Ma infatti, le televisioni sono padrone, avremmo preso la strada sbagliata, non c'è dubbio. A questo, e lo ricorda molto bene Daniele Dallera stamane sul Corriere, dopo vorrei leggere un brano di questo suo corsivo di stamane, ma all'ascoltatore iregnano io vorrei dire che il senso di questa chiacchierata, stiamo sempre parlando di tempo libero, quindi non mettiamolo con le maiuscole, il senso di questa chiacchierata è provare a capire se ci sarebbe una formula per rendere tutto più gradevole, perché un allenatore che fa il giro non delle sette ma delle sei chiese, l'abbiamo sentito, e poi noi abbiamo anche la pretesa che sia brillante magari e che risponda a tono e che non sia generico e sfuggente, beh, insomma, pretendiamo una sciocchezza a quel punto, no? Posso aggiungere una cosa? Ecco, una cosa che a me spiace, essendo uno che segue queste cose per anche non solo per mestiere, ma anche per piacere, per divertimento, è che quello che scompare sempre di più è, come dire, l'autenticità delle manifestazioni. Cioè, mi sembra che gli allenatori vanno lì sapendo che questo è da contratto. Una medicina da... Esatto. Io ricordo un episodio che mi ha molto colpito durante gli ultimi europei, quando alla fine di Olanda-Italia, vinta dall'Olanda 3-0, Van der Sar, che conosciamo tutti, sì, come prima cosa, quella prima cosa che fece, finita la partita con una vittoria veramente di grande soddisfazione, andò a baciare la sua bambina che era a bordo campo. Mi aveva colpito moltissimo, una delle immagini più belle degli ultimi anni di calcio, cioè fregandosene di tutti quelli che potevano essere doveri nei confronti dei media, andò a baciare la sua bambina, sembrava di essere ad un torneo notturno di provincia. Ecco, questa autenticità mi aveva colpito ed è quello che mi sembra venga sempre più a mancare nei dopopartite italiani. Condivido in pieno. Rieccoci con l'argomento di giornata e con il collegamento con il professor Giorgio Simonelli. Secondo me la soluzione, tu hai proposto l'ordine alfabetico, un ascoltatore di prima ha proposto il numerino come al supermercato, io credo che Monica, un'ascoltatrice milanese, abbia trovato la soluzione, ma non si potrebbe, scrive, fare come una normale conferenza stampa, una telecamera sola e i vari giornalisti che in base ai diritti fanno le domande in serie in ordine cronologico. Nel complesso verrebbero più domande ancora e non sempre le stesse ripetute sei volte. Non è male questa, non è male, no. Non è male. Sai che Monica, so che se la portiamo a Matarrese ho l'impressione che Monica stravince, no? Non vorrei far brutta figura al presidente di Lega, ma questa andrebbe sottoposta davvero a Rai, Sky e Lega, perché potrebbe essere davvero la soluzione. Ascoltiamo il secondo, c'è già un'ascoltatrice collegata che poi interverrà. Prima darei la parola al responsabile della comunicazione prodotto di Sky, Flavio Natalia, sempre al microfono dell'omonimo, nel senso di Flavio Suardi. Esiste un accordo in tal senso, però io sposterei l'asticella a un pochino prima, perché si finisce in occasioni come quella di, come dire, l'accaldatissimo post partita di domenica pomeriggio, col dimenticare perché la gente è là, perché gli allenatori vengono a raccontare alle televisioni cosa è appena successo. Quello viene fatto è un'esigenza del pubblico di completamento del racconto della giornata calcistica, c'è il pre, c'è la partita live e poi c'è il post. I tifosi, gli appassionati vogliono sapere da Mourinho, Ancelotti, Reia, cosa è successo, perché il perché di una scelta e il perché di un'altra. E le televisioni, in questo caso Sky, non sono altro che il microfono perché questo accada. Ovviamente accade con la mediazione di grandi esperti, ex calciatori di grande livello, ed è normale che accada. Quello che sembra venire da parte è invece un altro concetto, cioè che è parte del lavoro dell'allenatore raccontare ai tifosi per il tramite delle televisioni una serie di scelte fatte, la sua visione della partita, dei momenti chiave o di cosa poi accadrà. Non accade altro che questo, e dover tornare indietro al discorso dell'obbligo contrattuale è in realtà una piccola sconfitta per chi analizza quanto può essere accaduto domenica scorsa. Le società hanno effettivamente questo obbligo, perché è anche questo che è un po' il nocciolo della questione, cioè lo spettatore vuole anche capire se le società sono tenute, hanno questo obbligo di presentare qualcuno ai microfoni. Sì, d'accordo, però è come se io mi rifiutassi di aggiornarti sul risultato di una partita durante la partita stessa, è molto simile, cioè la Juventus, l'Inter, la Roma e tutte le 20 società di A al di là del fatto che traggono vantaggio dal fatto di poter raccontare, dire la loro, anche se ovviamente con tempi diversi in base anche all'interesse e al bacino di pubblico, di appassionati che ciascuna squadra muove, ma comunque in un clima di imparzialità che ci viene riconosciuto da tutti. Cioè, il racconto post a caldo della partita fa parte della, come dire, dell'insieme del fenomeno calcio e, scusami se lo dico, fa parte anche, è uno dei motivi per cui poi un allenatore, una società, un grande calciatore guadagna tot invece che tot meno qualcosa. Io non vorrei che, voglio dire, il fatto di avere degli impegni contrattuali facesse venire meno il perché ci sono questi impegni. L'impegno c'è perché si completa il racconto. Perché succede? Perché così il racconto è completo. Nell'interesse di chi succede? Nell'interesse dell'appassionato, del tuo radioascoltatore, del mio telespettatore, ma anche dell'appassionato di calcio che poi sceglie l'Inter, il Milan, la Roma, la Juve, il Napoli, la Regina, il Catania, eccetera, eccetera. Quindi quando si sente dire povero Mourinho, povero Ancelotti, povero Delio Rossi o povero Zenga, poi ci sono i casi particolari, per carità, però attenzione, perché fa parte del loro mondo, del panorama dei loro impegni professionali. Finita la partita, venirli a raccontare. C'è una cosa che condivido in pieno e poi voglio sentire l'opinione di Giorgio Simonelli in questo intervento, ed è quando Natalia dice si completa il racconto. Ora, questo a parer mio è vero per quanto riguarda Sky. Tu vedi la tua partita o vedi tutto il calcio, quello che ti pare, su Sky, e dopo hai le interviste. Al contrario su Rai, direi, Giorgio, perché su Rai tu, con un'impaginazione ardita, ma da anni ormai, vedi prima le interviste senza aver visto alcuna immagine. È singolare ed interessante però nello stesso tempo, perché è singolare che il commento venga prima del racconto. Però è anche vero che il commento è funzionale, come dire, alla creazione della spesa. Cioè, sì. Se io continuo a sentire qualcuno che mi racconta che di un gol sbagliato, di un gol mangiato, di una parata, dei famosi episodi, no? Di cui si parla tanto, mi viene sempre più voglia di vedere. Di vedere poi alle 6 il novantesimo. Certo. Quindi stavo lì a vedere il novantesimo. Certo. Quella, poi, casualmente può essere una strategia vincente, che nasce dal caso, anzi nasce dalla necessità, da una mancanza di immagini, che però poi crea l'acquolina, questo, quindi, anche quello al suo perché, come si suol dire. Non c'è dubbio. Un'altra cosa dice Natalia di Sky, dice l'allenatore spiega il perché di una scelta, spiega un po' di cose. Peccato però che una volta su due debba invece dire cosa farà la sua squadra nel derby la domenica dopo, o sia messo a confronto con insomma, su altre situazioni. In realtà il vero commento all'allenatore, il vero dopo partita all'allenatore, lo si fa, a parer mio, in termini, cioè in proporzione abbastanza scarse, secondo me. Ma perché io in tutto questo discorso, come dicevo anche prima, ho un timore, chiamiamola così, il timore della burocratizzazione. Mi sembra un discorso come di quando si comincia a dire questo al dovere, siccome io penso che le cose fatte per dovere non vengono mai fatte bene. Certo. Ecco, le cose fatte bene sono quelle che si fanno per piacere. Ecco. Allora, se uno allenatore va davanti alle telecamere di Sky perché ha il dovere di andare, come diceva prima, allora questa roba qua, è difficile che ne venga fuori uno spettacolo davvero interessante, perché starà sulla difensiva, perché appunto non racconterà mai la verità, perché non dirà mai quello che poi al tifoso veramente interessa, cioè chi mi ha fatto perdere o vincere la partita, giocatore o arbitro che sia, e si trincererà dietro alle formule che conosciamo bene, no? E che sono quelle che, insomma, che rendono il calcio, come dire, uno spettacolo da questo punto di vista un po' simile alla politica e quindi terribilmente noioso. Sai che c'è un ascoltatore molto spiritoso, Marco da Roma, che scrive: per la completezza dell'informazione è vero l'episodio di Van der Sar, ma ricordate anche la domanda demenziale che gli fu fatta e che fece scappare anche lui, ed è vera, perché poi finì così, tra l'altro. Vabbè, ma lì era giustamente un docente, non voleva infierire, quindi era stato particolarmente signore. Sentiamo Antonella, chiamato da Catania. Buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, non è un piacere parlare con lei, ma molto di più. Però non mi dilungo sulle lodi perché lei le detesta. Brava, è già andata fuori giri col dottore, quindi andrò Infatti al signore sarebbe stato meglio ma con la S maiuscola. Allora io mi riaggancio a quanto detto dal professor Simonelli a proposito del commento funzionale all'attesa. Il commento può essere funzionale all'attesa ma anche alla creazione del racconto, perché se io non ho visto la partita e mi faccio condizionare, come è quasi inevitabile che sia se non ho una visione ipercritica della televisione, mi faccio condizionare dal commento stesso, la mia opinione viene in qualche maniera, mi si passi il termine, manipolata. Sì. Il professor Simonelli sa quanto è cambiata la comunicazione giornalistica negli ultimi 20 anni, non solo in ambito sportivo, cioè ma sport è l'ultima ruota del carro in questo senso. E quindi semmai proporrei degli intensivi corsi di comunicazione massmediatica volta all'utilizzo dei medesimi strumenti da parte degli allenatori, sarò più chiara. Se l'allenatore imparasse, e lo dico come provocazione, a riuscire a prendere per i fondelli in maniera passabile, magari anche piena di sofismi e di retorica, forse non se ne accorgerebbero neanche i giornalisti e qualche, al limite, tifoso attento alla comunicazione. Durette. Io al limite posso prestarmi con Zenga, visto che ci vivo a Catania, e posso dargli una mano se vuole, perché lo capisco profondamente, lo comprendo profondamente. E siccome vivendo a Catania ho sentito parecchie cose su di lui, mi domando chi gliel'abbia fatto fare. Chi gliel'abbia fatto fare e quanto durerà questa avventura. Grazie, grazie Antonella. Sullo stesso solco, ancora più dura, l'intervento a piede teso di un ascoltatore che firma Giordano e che giro anche questo a Giorgio Simonelli. È vero, premette, insomma, è vero che sono i soldi delle televisioni a mantenere gli allenatori, ma non giriamoci intorno. Io col mio canone pago o no lo stipendio avariale, scrive Giordano. Non è malissimo nemmeno questa, eh? La domanda è retorica. Io ho l'impressione che oggi volino basso qua, da queste parti, stiano ronzando ad altezza d'uomo. Vabbè Giorgio, ti lascio pensare un istante. Ho detto che volano bassi oggi. Giampaolo da Verona scrive: ho capito bene le parole del capo della comunicazione di Sky, clima di imparzialità di Sky. Scusate, io sono tifoso del Chievo, ho visto Chievo-Juve domenica e ho assistito al dopopartita, avrei qualche riserva da fare. È un'opinione di Giampaolo da Verona e non... No, non di altri. Professore, tiriamo già qualche fila o sentiamo? No, sentiamo ancora la voce della Rai prima. Sei d'accordo? Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, il direttore di Rai Sport, sempre al microfono di Flavio Suardi, Massimo De Luca. Le interviste sono regolamentate da un contratto, perché naturalmente la Lega Calcio cerca di ricavare più soldi possibile dai vari pacchetti che vende periodicamente, e quindi uno dei pacchetti prevede proprio questa possibilità, che la Rai è tornata ad aggiudicarsi quest'anno. Quindi c'è un obbligo preciso. Ora il punto qual è? Ed è stato anche oggetto di una specifica riunione poco dopo l'inizio del campionato, dopo che già si erano creati alcuni casi, in particolare poi sempre con Mourinho tra l'altro. Il problema qual è? La Lega cerca di fare molti soldi e vende a molti contraenti, perché bisogna considerare che la diretta del dopopartita attualmente è appannaggio in chiaro della Rai, sul satellite di Sky, sul digitale terrestre di Medias e la 7. A questo va aggiunto la conferenza stampa, naturalmente per i colleghi della carta stampata, e le interviste, mix zone eccetera, registrate per le varie emittenti locali. Ma quello che ho detto io personalmente in quella riunione è: ho partecipato agli amici della Lega, dico: amici cari, se voi vendete molti diritti vi assumete molti doveri. Se vendo 10 diritti a 10 emittenti diversi, per dire, chiaramente andrò a far fronte a 10 richieste, e ognuno ha il suo diritto acquisito e bisogna rispettarlo. Quindi bisogna che le dette lavori si rendano conto, perché quei soldi vanno poi alle società, quindi in qualche modo alimentano i loro stessi ingaggi, che spesso sappiamo sono anche faraonici. Ma questo non se ne esce, è un dato di fatto. È possibile che una società decida d'amblè di non mandare nessuno ai microfoni del dopopartita senza conseguenze? Possibile, ma non è corretto, proprio perché insomma, l'assunzione di responsabilità da parte della Lega c'è, la Lega rappresenta per i diritti in chiaro, in particolare tutta la società, e quindi deve rispondere a questo obbligo, no? Dopodiché si può capire che un certo giorno, su una particolare tensione, possa preferire non parlare, ma certo non può essere un atteggiamento prolungato, perché se in linea di principio questo atteggiamento fosse condiviso tutte le squadre, quel diritto che pure è stato venduto verrebbe annullato. Quale potrebbe essere una soluzione per rendere un po' meno teso anche questo momento delle interviste del dopo gara? Perché non dimentichiamo che un allenatore viene preso a partita terminata, magari quando la sua squadra non ha giocato bene, con una tensione altissima. Ci sono diversi fattori. Uno deve essere, diciamolo anche, la correttezza nostra, cioè di noi che facciamo questo lavoro. Quindi bisogna che noi stessi ci facciamo carico delle esigenze di tutti. Se l'avete notato, io la domenica sportiva chiudo sempre abbastanza rapidamente i collegamenti del dopo posticipo, perché mi rendo conto che insomma ci sono altri che hanno diritto. O si è corretti, oppure in una situazione del genere non ne veniamo fuori. Da una situazione del genere non ne veniamo fuori. E gli addetti ai lavori non possono fare null'altro che adeguarsi a questa situazione, perché i contratti contribuiscono. È un dovere, non si possono avere solo diritti, si devono avere anche dei doveri, non c'è niente da fare. Bisogna che se ne rendano conto un po' tutti, poi ci deve essere civiltà nelle domande, professionalità nelle domande, che peraltro mi sembra ci sia. Però o si parte dal concetto che è una cosa che si deve fare, loro in particolare, oppure non so di cosa stiamo parlando. Allora, e mi rivolgo al professor Giorgio Simonelli, questa è la tesi ufficiale della RAI. Per contrasto, leggo stamane questo corsivo sul Corriere della Sera firmato da Daniele Dallera. Ne faccio una sintesi, no, cioè, cito testualmente le sue parole, ci mancherebbe altro, ma ne faccio una sintesi. Ragionamento delle TV. Abbiamo pagato un servizio, dobbiamo consumarlo fino in fondo. Non va bene, perché un tecnico, un giocatore ha diritto anche alla non parola. Può e deve essere libero di non presentarsi o di presentarsi e non rispondere alla domanda se non gradita, non deve insultare, questo no. Ma i soldi non possono creare obblighi, soprattutto se si tira in ballo il diritto di espressione, che contempla anche quello di non esprimersi, di non rispondere. Quante volte un giornalista alla carta stampata che non paga, e speriamo non pagherà mai, si vede negare una risposta in un'intervista? Ci si resta male, ma non si chiede l'intervento della Lega Calcio. Vorrei un commento tuo sulle due. Allora, io credo che quello che diceva De Luca, c'è un elemento che mi sembra molto interessante, anche se va approfondito, cioè che la civiltà e la competenza a volte sopperiscono al problema degli obblighi e dei diritti, che non ci porterebbe da nessuna parte. Io credo che a volte una mancata risposta, un silenzio, sia molto più eloquente e molto più significativo di parole dette, tanto per dire, menando il can per l'aia, come spesso fanno gli allenatori. Allora, c'è il diritto di non rispondere, però credo che quel diritto di non rispondere sia, come dire, un'informazione molto forte, sia una cosa non detta ma detta in maniera molto più efficace che mille parole che girano attorno al problema. Quando uno si rifiuta di rispondere a una domanda, dà una risposta molto secca e molto netta. No? Non c'è, tu che non sei c'è. Giornalista lo sai meglio di me. Lo so bene, sì, e infatti anch'io mi interrogo. Allora, il problema è quello di andare o non andare davanti alle telecamere. Questo sì è un problema, perché come dicevo prima, se uno non ci va o manda il suo secondo, lì allora sì che cambiano le carte in tavola. Sì. Ma quando è lì poi rifiutarsi di rispondere è più eloquente che rispondere a sì, molte volte. Questo è vero. Quindi quel problema lì non sussiste. Questo è vero. Sussiste il problema di una capacità, come dire, di organizzare il dialogo, ecco, perché poi insomma è vero quello che dice De Luca, bisogna anche saper fare le domande. Certo. Che è un problema che, adesso non voglio mettere una nota così triste in questa chiacchiera che comunque riguarda un elemento divertente, ma è come il giornalista che va a chiedere a chi ha avuto un grave lutto che cosa prova in questo momento. Certo. Fatte ovviamente le debite proporzioni. Fatte le debite proporzioni accade spesso, questo appunto. Si vuole, certo. Credo che la situazione si possa veramente gestire sapendo quali sono i meccanismi della comunicazione. Non sono d'accordo con la simpatica signora Catanese quando dice che bisognerebbe seguire dei corsi di comunicazione, che ci mancherebbe anche quel poco di spontaneità che abbiamo. Sì. Poi per prendere per i fondelli l'eventuale cronista, no, non c'è bisogno del corso di comunicazione. Noi entrambe abbiamo una grande ammirazione per Nereo Rocco e sappiamo che non aveva mai fatto corso di comunicazione. No, no, però sapeva come fare. No, posso dire ancora una cosa? Certo, che si insinui da parte del tifoso del Chievo una sudditanza psicologica non solo degli arbitri ma anche dei cronisti nei confronti delle grandi. È curiosa, insomma, è una nota in più anche questa. Ascolterei ancora velocemente un ascoltatore. Ascolterei un ascoltatore non è male come cacofonia. Renzo, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica, Renzo. Innanzitutto volevo abbracciare il signor Giorgio perché ha un po' anticipato quello che avevo in animo di dire io, soprattutto con la figura dei quei giornalisti che cacciano il microfono sotto la bocca del congiunto, magari inquadrando gli occhi sperando nelle lacrime. Volevo solo spezzare una lancia a favore di Mourinho, perché sì, domande che gli sono state fatte dal signor Variale, gli chiedo al signor De Luca dov'era, erano esclusivamente con dei secondi fini, maliziose, tendenziose, quasi a insegnare il lavoro, ad irriderlo. E lui giustamente si è incavolato. Probabilmente un italiano più sanguigno avrebbe reagito anche diversamente. Ma io su questo, Renzo, ho qualche dubbio, nel senso che Mourinho è in genere sempre il primo a provocare, e poi però mi sembra che non regga il gioco della provocazione da lui stesso innescata. Le tabelle su Mancini le aveva dette lui il giorno prima da Piano, era andata lui a cercarsela, era inevitabile. Se si provoca poi bisogna reggere il gioco, bisogna essere come Sgarbi, non come Mourinho, o no, Giorgio? Io credo che Mourinho fa parte di quel gioco delle parti a cui accennavo prima. Io credo che Mourinho, col suo pessimo carattere, che poi bisognerebbe capire fin dove è vero e dove è vero, fin dove frutta invece, comunque, con questo suo modo di essere faccia anche la fortuna di tanti giornalisti. Non c'è nessuno. Credo che i giornalisti sono veramente felici di avere uno come Mourinho tra le mani, perché è uno che ti costruisce un sacco di notizie, un sacco di storie. Insomma, io sai che lo confesso, non sono un tifoso di quella parte, ma mi ricorda un po' da questo punto di vista l'avvento di Elenio Herrera, uno che ha scompigliato le carte bene, e quindi insomma i giornalisti fanno bene ad arrabbiarsi, ma poi sotto sotto secondo me sono contenti di avere un personaggio così. Mi sembra la chiosa ideale. Non ci resta che ringraziare Giorgio Simonelli. Grazie a voi. Alla prossima occasione. Grazie davvero. Scusarmi con Nicola Filippone e la sua rubrica di storie, perché oggi non è andata in onda. Domani facciamo un doppio ripasso. Domani ci ripassiamo la data di ieri, di domani e la data di oggi. Non è nulla di grave. Grazie a Flavio Suari in redazione, a Fabio Cantadori in regia, Giornale Radio.